Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola riccione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, mo te sputo che fai. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno cari amici di Runtime, con il cursore abbassato parlare risulterebbe complicato perché probabilmente le frequenze uditive che si spargono dalle mie corde vocali potrebbero non arrivare alle vostre, ai vostri dispositivi d'ascolto, qualsiasi essi siano, siano orecchie reali, orecchie artificiali, cuffie, casse appiccicate, insomma qualsiasi cosa. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo martedì mattina dopo le 7, runtimeradio.it, la vostra web radio geek, sempre più live, sempre più radio, a una mattinata insieme a me con Buongiorno un cazzo, una trasmissione assolutamente impreparata perché Michela ce l'aveva da fa e allora giustamente mi ha chiesto il cambio. Però come succede sempre in queste situazioni dove non è che sono proprio preparato, cioè io ho una puntata che devo fare, che non riesco a fare da 2 settimane perché non ho il tempo di prepararmi, insomma, e quindi dice allora, tu preparala e non rompi i coglioni. Cioè, avete ragione assolutamente, però sono comunque qui per darvi il buongiorno un cazzo in ogni caso, perché non è che non ho dei temi, ma dopo ne parliamo. E intanto salutiamo Michela, giustamente, che fa, non mi ascolta Michela, giustamente. Leo Vargion che dice che musica a sua dente, cioè, c'era un brano prima che ho dimenticato anche di segnare, giustamente avrei potuto insomma anche dirvi che brano era, magari vi piaceva. Buondì anche a DJ Walker che ci fa veramente piacere di avere il nostro carissimo cugino di Revolve Radio, che sono un po' radio, sono un po' Twitch, adesso insomma sperimentano nuove frontiere. Ci devo capitare ancora una live Twitch, ci vengo, perché così se famo due risate giustamente imparo qualcosa, perché sapete io imparo sempre qualcosa di nuovo alla mia 50 milionesima insomma anni di età. E salutiamo anche Francesco che dice che musica sui denti, no, che musica sui denti, che giustamente. E poi mi si fa notare che non faccio più l'intro parlata, quella prima della sigla, ed in effetti è vero, non la faccio più da tanto tempo, anzi penso che sì, sto registrando Francesco, e me ne sono accorto proprio 3 secondi prima di spingere, di partire con la sigla, figurati. Comunque sì, non faccio più l'intro, non la faccio da questa stagione, quindi è un po' particolare. Attenzione, abbiamo un messaggio audio, vediamo un po' se... Buongiorno un cazzo, una trasmissione che ha i temi. I temi, esatto. No, ma i temi ci sono sempre, ragazzi. Con Buongiorno un cazzo basta che ti svegli la mattina ed è fatta, insomma. E io ho messo 2 cose, vi annuncio, si parla di... Abbiamo parlato l'altra volta del fatto che quando uno ti dice io non ho un'idea politica c'è sempre un'idea politica dietro, no? È come se dire io sono un fascista è meno elegante di dire ah, ma io sono una persona libera, non ho un'idea, e poi bra bra giù a sfascistate incredibili. E più o meno parleremo della stessa cosa questa mattina, ma in temi ovviamente Novax, insomma, in temi antivaccinisti, in temi Covid, insomma, in questo è il periodo del Covid, ragazzi, quindi alla fine si finisce a parlare di Covid. Buongiorno anche a Walter, ovviamente, che è appena sorgiunto ed emerso. Però prima ovviamente di parlare del tema della settimana, comunque grazie del jingle spontaneo di Leo Argion, questo quello che sta succedendo e che state sentendo in OGM, anche a volte anche nel il mattino all'ora in podcast o nel buongiorno un cazzo, ci fa sempre un po' raccapricciare, perché sì, noi prendiamo anche notizie internazionali, però poi alla fine quello che guardiamo molto più frequentemente e molto più naturalmente è quello che succede in casa nostra, no? E questa mattina è venuta proprio così, questa dedica musicale ve la faccio proprio perché è venuta così. Ovviamente questa è Povera Patria di Franco Battiato, tra l'altro con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, ed è una canzone che mi ha fatto sempre riflettere, perché se tu l'ascolti inizialmente sembra un po' banalotta, no? Quello che dice il Povera Patria, buffoni politici, però poi alla fine l'insieme, al di là della qualità melodica, armonica e anche poetica, insomma, del grande maestro che salutiamo sempre, insomma, e c'è anche da dire che ci sono dentro dei piccoli tasselli, no? Delle piccole verità, no? D'altronde questo è il nostro, è stato il paese dove i servizi segreti di tutto il mondo hanno fatto quello che cazzo gli pareva, operazioni militari hanno creato incidenti e morti, ma tutto a posto, stragi d'estato e tutta una serie di cose che comunque hanno fatto parte proprio endemicamente della nostra storia, e molte delle quali ovviamente resteranno così insolute, perché è come se lo Stato improvvisamente decidesse di condannare se stesso all'interno di operazioni che erano comunque concordate con forze, ovviamente ricordiamo, straniere, che è importante, no? Perché noi ce l'abbiamo sempre con stranieri, con i migranti, con i cosi, perché ci vengano a rubare la dignità, però poi alla fine, insomma, quello che non facciamo è prendercela con quelli che veramente hanno governato sto paese per 50 anni senza assolutamente dire, cioè senza necessariamente contribuire in maniera positiva. Dunque, ragazzi, parliamo di no Covid. Io nel gruppo di OGM, nel WIP di OGM ieri, ho postato due video all'interno del nostro gruppo, insomma, di lavoro riservato, e devo dire che voi sapete che io Runtime giustamente l'ascolto quasi 12 ore, 12, 14, 18 ore al giorno a volte, e soprattutto quando ci sono le live. Però ieri devo ammettere che sono stato un po' latitante, perché stavo studiando delle cose e poi ho anche ascoltato un pochino, però poco, e poi ci sono proprio crollato, insomma, e quindi non so se ne hanno parlato di questa cosa, ma anche allora ne avessero parlato, io comunque vi farò sentire proprio i contributi di quello che di cui vi voglio parlare, di cui voglio ovviamente esprimere le mie considerazioni e bestemmiare naturalmente insieme a voi, a meno che voi non siate d'accordo, e sperando che si sentano, perché in realtà non so che volume c'hanno all'interno di YouTube e non potrei rimediare, quindi insomma abbasserò le basi e speriamo insomma di riuscire a fare sentire quello che c'è da sentire. Scusate, mi sto un po' impicciando perché nel frattempo sto facendo altre cose. Allora, questo primo video è abbastanza importante, si chiama Arresto cardiaco dopo il vaccino, la testimonianza di Santo Giuliano. Ma già che ti chiami Santo, ballerino di amici, capisci? Cioè, allora, già soltanto nel titolo ci sono due discriminanti: ti chiami Santo, quindi appartieni, insomma, a una cultura che io non apprezzo mai, cioè quella, insomma, del del non vi dico cosa, perché insomma se no è ballerino di amici, cioè questa qua significa che persone come queste venderebbero il culo della madre piuttosto di avere 5 like in più all'interno di un video che postano da qualche parte. Ovviamente questo video è pubblicato da La Pressa, quotidiano online. Io non ho minimamente idea di che cosa sia La Pressa, quotidiano online, che ha 12.000 iscritti, quando questo video ovviamente ha fatto 200.000 e passa visualizzazioni. Vi aggiungo anche che il video è del 17 agosto del 2021, ma questo conta poco. Ha 6.082 mi piace, non sono specificati i non mi piace. Bello, perché chiaramente, e questo dice una cosa importante, ragazzi, adesso ce lo sentiamo. Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi che mi avete mandato in questi giorni e volevo rassicurarvi che ora sto bene, mi sto riprendendo e oggi mi hanno spostato dalla camera intensiva alla camera normale e mi stanno tenendo ancora sotto controllo. E beh, ho deciso di fare questo video per testimoniare quello che mi è successo e magari potrebbe essere d'aiuto per chi ha dei sintomi e magari non si rende conto di quello che gli sta succedendo, quindi ho deciso di raccontarvi tutto quello che è successo in questi giorni. Il giorno 15 luglio ho fatto la prima dose di Pfizer, mi trovo a Dubai per lavoro, quindi per il lavoro che sto svolgendo mi è stato chiesto di fare il vaccino e sinceramente ero anche felice di farlo perché ho sempre pensato che sia la cosa giusta, una cosa migliore da fare. Quindi ho fatto la prima dose di vaccino e il giorno 16 ho iniziato ad avere la febbre alta. Ho avuto la febbre per 2 giorni, il giorno 16 e il giorno 17, e il giorno 18 ha cominciato ad abbassarsi la febbre. Poi il giorno 19, la sera, mentre parlavo al telefono con la mia famiglia, ho iniziato a sentire un dolore forte al petto, come una pressione fortissima, e mi mancava il respiro, avevo un po' di dolore qui in gola, e poi a un certo punto mi sono venuti i dolori ai denti. Così ho deciso di chiamare l'ambulanza e mi hanno subito fatto l'elettrocardiogramma e hanno visto che i valori erano tutti normali e che stavo bene. Mi hanno chiesto di andare in ospedale per fare maggiori accertamenti, ma come uno stupido ho detto di no, ho pensato che forse era solo un po' di ansia, un piccolo dolore e che sarebbe passato. Quindi mi sono addormentato e il giorno dopo sono andato al lavoro e nel pomeriggio il direttore artistico con cui sto lavorando mi ha guardato e mi ha detto: forse è meglio che vai in ospedale, non ti vedo molto bene. La mia famiglia anche ha insistito per andare in ospedale, anche la mia ragazza. Così ho deciso di andare in ospedale. Sono arrivato e i valori dell'elettrocardiogramma erano sempre normali e quando mi hanno fatto il prelievo del sangue si sono accorti che i valori erano un po' sballati, non stavano bene. Così hanno chiamato subito un cardiologo e mi hanno portato subito in camera intensiva e mi hanno fatto, credo si chiami un angiogramma, e hanno controllato tutte le vene per sapere se per caso c'era un rischio infarto e hanno controllato se le vene erano pulite, se tutto era ok, e il cuore stava, fortunatamente stava bene e non aveva nessuna complicazione. Poi mi hanno portato, mentre mi trasportavano dalla sala operatoria di nuovo in sala di rianimazione, ho cominciato a sentirmi male e a un certo punto il cuore pian piano si è fermato finché non si è spento e poi da lì mi hanno fatto, penso che mi abbiano iniettato dell'adrenalina e mi hanno fatto, scusate, mi hanno iniettato l'adrenalina e mi hanno fatto il defibrillatore, così penso che mi hanno svegliato, mi hanno ripreso. Mi ricordo che mi sono svegliato, che in camera c'erano tante persone e mi hanno aiutato finché non mi sono sentito meglio e poi da lì mi hanno tenuto monitorato per tutto il tempo e hanno capito che c'era un'infiammazione al cuore, al muscolo del cuore, al miocardio, e tutto questo dovuto dal vaccino. Ovviamente non sono contro il vaccino, non lo sto dicendo perché me lo sto inventando. Ovviamente i dottori sono venuti e mi hanno detto che ovviamente non posso fare la seconda dose perché mi ha provocato questa reazione fortissima, e in realtà sono morto per un secondo e mi hanno ripreso. Quindi diciamo che a distanza di 5 giorni il vaccino dalla febbre mi ha provocato poi una miocardite che mi ha portato ad un arresto cardiaco. Quindi la mia testimonianza non è per dirvi non fatevi il vaccino, assolutamente. Questa è un'esperienza che magari succede a una persona su un milione, ma quello che vorrei dirvi è che a volte quando sentiamo telegiornali che dicono succede a una persona su un milione, succede a una persona su 10 milioni, non pensiamo mai che quella persona magari possiamo essere noi, magari può capitare anche a noi. Quindi quando decidiamo di fare una cosa importante come il vaccino dobbiamo stare un po' attenti. E per esperienza, io sono un po' testardo, non ho ascoltato i primi sintomi e vorrei che voi prestasse un po' più di attenzione. E se per caso vi fate il vaccino, se sentite un qualsiasi sintomo, chiamate subito l'ambulanza, cercate di andare subito da un dottore, non esitate, perché per me quello che sembrava un semplice dolore al petto, non mi ero accorto che era una miocardite e che mi ha provocato poi, ecco, un arresto cardiaco. Quindi sono fortunato di essere qua, sono fortunato che quel giorno ho deciso di andare in ospedale, e altrimenti se non ero in ospedale e stavo per strada magari non ce l'avrei fatta, o se quell'arresto cardiaco mi sarebbe venuto il primo giorno quando ho deciso di non andare in ospedale e di dormire in camera, ero da solo in camera, quindi magari non ce l'avrei fatta. Quindi mi raccomando, qualsiasi decisione prendiate, che sia pro vaccino o contro vaccino, state sempre attenti. E niente, vi ringrazio comunque per tutto il sostegno che mi avete dato e spero... Vabbè, abbiamo sentito abbastanza, che poi dopo ci sono tutte le cose sue autoreferenziali delle quali possiamo tranquillamente fare a meno. E ragazzi... Che dire, qui questo video sarebbe da analizzare da inizio a fine, perché però partiamo dalla parte grossa. Che cosa vuole comunicare un video del genere? Nel senso, io non sono contro il vaccino, anzi il vaccino va fatto, però non ve fate il vaccino, perché il messaggio fondamentale è quello di creare confusione. Fondamentalmente, non so se intenzionalmente, chiaramente forse non intenzionalmente, però quello che crea questo video crea confusione. E se tu vai a leggere ovviamente tutti i messaggi, i commenti sotto, chiaramente so tutte persone che bravo poverino, sei sincero, ti viene dal profondo del cuore, sì, diciamo la verità, tutte queste cose qua, perché chiaramente tutta questa gente non vede l'ora ovviamente di buttare, cioè nel senso di buttarsi in questo fuoco, no? E ci aggiungiamo anche il fatto che magari questi quotidianuncoli che magari lavorano, che vivono un po' di clickbait, quindi poi alla fine è quello che cercano di dare più che la notizia, è tutto questo ciarpame, no? Tutta questa sorta di cose, di informazioni decontestualizzate buttate in mezzo, così che la gente vada, clicchi, e con le pubblicità arrivino anche poi ovviamente le visualizzazioni e qualche denaro, perché poi è un po' questo il discorso. E quando uno ti dice io non sono né pro né a favore, non voglio fare una cosa con né contro né a favore, e mente, ma per chiunque mente quando dice una cosa del genere, perché tutti abbiamo una posizione, tutti abbiamo una visione, o tutti siamo motivati da ragioni sincere o di malafede per esprimere una considerazione. Soprattutto perché si racconta una storia assolutamente senza né capo né coda, che magari è anche vera, perché io non è che, se non fosse per alcune cose che già mi impuzzano, no? Diciamo, ci potrebbe anche stare che lui pensi che sia così quello che è successo, o che abbia capito questo da quello che è successo. Però, come giustamente dice anche DJ Joker nella chat, di solito miocarditi o problemi magari di aritmie o problemi anche cardiaci possono essere più motivati da uno che pippa e che si vergogna a dire ai genitori che guarda io pippo, allora no, è stato il vaccino. Ma in qualsiasi caso, qualsiasi sia stato il motivo, anche un virus, un fattore esterno, o anche se solo sia vero quello che è successo, In realtà, voglio dire, ci sono milioni di fattori possibili e immaginabili, e che arrivi un medico, un cardiologo, qualsiasi esso sia, e ti dice: tu hai un'infiammazione al cuore per colpa del vaccino, così, bam, de botto, senza senso, a meno che non mi porti casistiche, non me lo scrivi su un pezzo di carta, me lo certifichi, cioè dove tu a un certo punto mi fai vedere, tu testimone di questa cosa, mi fai vedere un foglio di carta dove c'è scritto che tu non devi più fare vaccini perché il medico ha detto che tu c'hai avuto un'infiammazione per il vaccino. Poi tra l'altro non sappiamo che vaccino, non sappiamo che dose, se la prima, la seconda, non sappiamo dove l'ha fatta, non sappiamo niente di tutto questo contesto. Però al di là di questo non è che ci poteva raccontare vita, morte e miracoli. Lui ha voluto fare questa testimonianza per una questione proprio per quei 10 secondi di ambizione e di megalomania che hanno tutte le persone che oggi vanno su YouTube cercando quei 3 secondi di popolarità. Perché poi uno fa il ballerino d'amici, non è che lo fa perché... Poi quando dice sono andato al lavoro, il lavoro mi viene da ride, no? Perché sempre ritornavo sempre a Dubai, sono andato a fare il lavoro a Dubai, quando a Dubai ricordiamoci sempre che sotto tutta quella parte nascosta che noi non vediamo, da quel grande teatro, da tutta quella finzione tecnologica che c'è sta la gente che se muore di fame viene bastonata anche semplicemente se alza la testa. Però va bene, in fondo che ce frega a noi, noi ci piacciono le stelle, ci piacciono le luci. E quindi io che sto qua, insomma, a un certo punto ti racconta sta storia che il 18 agosto che praticamente lui è, insomma, si è sentito male per colpa del vaccino, che poi non è che non ci può sta, o non è che non ci siano stati queste situazioni. Però a me quello che mi dà fastidio non è tanto il fatto che tu testimoni che il vaccino è pericoloso, che di per sé ci può anche stare, è il modo in cui tu lo fai, in questa maniera così banale, in questa maniera così superficiale, in questa maniera così pretestuosa, che chiaramente a te del vaccino, di quelli che si sentono male del vaccino, non te ne frega un cazzo. Ma è chiaro che è così. Cioè, a te quello che ti frega è comunque avere questa attenzione, che viene poi, tra l'altro, reindirizzata da tutte queste realtà, tutti questi situncoli, questi apparenti organi di informazione che ripensano e che ripostano in continuazione questa roba che ovviamente alimenta, no? E diventa poi una prova, perché a un certo punto per la gente che vuole sostenere un certo tipo di tesi, di teoria, questa qua diventa una prova. Lo vedi? C'è la testimonianza. Perché mi ricordo mia nonna, quando ero ragazzino io, mia nonna diceva: è vero perché l'hanno detto alla televisione. Non so se ve lo ricordate, no? Però era così, funzionava così. Una volta quello che diceva alla televisione, la televisione era talmente un oggetto esotico, così importante, no? Che doveva essere forse istituzionale quello che diceva, doveva essere la verità, no? Lo diceva la televisione, come se ha detto il Padre Eterno, no? Stessa cosa, no? E mo YouTube, per certe persone, in certi contesti, YouTube diventa un po' così, solo che mentre che prima la televisione la faceva l'istituzione, appunto, YouTube lo fanno tutti. Io sono tentato da tantissimo tempo, utilizzando un sistema di face tracking e un sistema di costruzione di personaggi 3D, di fare un canale YouTube dove, mascherato da Topolino, comincio a dire tutte le peggio nefandezze complottistiche possibili e immaginabili. Secondo voi, facendo questa scommessa, ma perché io, perché non c'ho il pelo sullo stomaco di fare una cosa del genere, ma secondo voi quanto tempo ci metto ad arrivare a 100.000 iscritti? Secondo voi, chiaramente, ovviamente poi dopo saranno tutte le segnalazioni a gente che giustamente si indignerà contro, però poi quanti sostenitori, quanti amici avrò io per poter fare questa cosa? No, questa sarebbe interessante da scoprire. E adesso vi leggo, così vediamo un attimo anche cosa ne pensate voi, e poi andiamo al secondo video. E comunque, ragazzo mio bello, di cui non sappiamo neanche il nome, perché non viene riportato nome, non viene riportato niente di sto ragazzo, solo la faccia, sta lì, lui è una faccia adesso in questo momento. Guarda, io penso che piuttosto che far preoccupare i tuoi genitori con delle menzogne, è meglio gli dici la verità, eh? Doveva partire una canzone, ma non è partita perché il mouse non mi funziona stamattina. Non so perché. Ah, no, non è colpa del mouse, scusate. shattered pages in history books. Traveling north, yeah. And keeping mouth, yeah. My servant home. Never be home, my home. Never be home, never be home again. Doomsday in the cinemascope. Minuscule man without cause for hope. The fabric tears, yeah. The silence, yeah. My sovereign home will never be home, will never be home. My home, never be home, never be home again. Io apprezzo le canzoni di Giamendo per il semplice fatto che, se voi considerate che non passeranno mai per nessuna radio commerciale, sono le canzoni più radiofoniche che possano esistere, quelle belle, chiaramente. Perché praticamente queste sono canzoni che durano massimo 3 minuti, di cui praticamente un minuto è fatto apposta per farti entrare con la voce a sbafo. E comunque, giustamente, Francesco mi dice che l'ha detto, che era la prima dose. Ok, hai ragione. Cioè, hai ragione. Sicuramente è così, a me mi è sfuggito, e quindi lo diciamo. Per correttezza, giustamente. E DJ Hocker ci dice: guarda, ci stava l'hacker cattivo con Topolino, era hackerino. E lo so, ma infatti mentre glielo dicevo avevo proprio quell'immagine in testa, avevo proprio lui, capito? Che quindi io de spalle con l'orecchia di Topolino che dico cose con la luce praticamente che mi fa solo la silhouette. Mi piace questa immagine qua, non so perché, però sì, era sicuramente presa di spunto, insomma, da Stacca Stacca, che amiamo tutti, insomma, e che sappiamo è uno dei più grossi fake che siano mai stati preparati. Quindi vedete che i fake poi alla fine non sono roba di questa generazione, ma sono roba di tanta generazione. Quindi tante generazioni. E allora andiamo al secondo caso. Il secondo caso invece è anche questo interessante, perché, anzi, forse questo è più interessante. Questo, secondo me, mentre che sto tizio, sto ragazzetto, era consapevole fino a un certo punto di quello che stava facendo, secondo me invece questo secondo soggetto è molto più consapevole di quello che sta facendo, e lo sta facendo forse illegalmente e forse in malafede, cioè molto più in malafede. Tra l'altro, questo video è diviso in due parti, è importante questa cosa. Allora, ora vi dico, il video dura in tutto 3 minuti e 17, quindi è più breve di quell'altro, però è un video diviso in due parti, appunto, perché secondo me sono due video distinti che sono stati ovviamente riagganciati, diciamo. La fonte è Ala News, che ho già visto mille volte su questi tipi di temi, che ha 99.600 iscritti, quindi deve essere sempre quelle fonti informazione un po' alternativa, un po' così, 271.000 visualizzazioni e 6.349 mi piace, che so più o meno, so 300 mi piace in più di quell'altro video, insomma. Quindi io non mi piace, abbiamo detto che, come ci ha informato giustamente Leo Vargion, non vengono più visualizzati da YouTube. Peccato, perché secondo me è sempre un indice, insomma, alla fine in informativo, ma d'altronde da Google che cazzo ci vogliamo aspettare. E il titolo del video è Covid, virgola, farmacista di Viareggio conta i tamponi positivi dei vaccinati su Instagram. Allora, anche questo è importante da ascoltare. Uno, perché ho detto, secondo me lui quello che fa all'inizio, secondo me è al limite non so se esiste un albo dei farmacisti, ma secondo me veramente se l'è rischiata questo, cioè tipo veramente di essere denunciato ed essere estromesso praticamente da dall'ordine, insomma. Vabbè, ascoltiamocelo un attimo. Buongiorno, la situazione è questa stamattina. Positivo, 3 dosi. Positivo, 1 dose. Positivo, 1 dose. Positivo, 2 dosi. Positivo, 2 dosi, 2 dosi. Positivo non vaccinato, positivo non vaccinato, positivo 2 dosi. E non faccio commenti, dico solamente quello che vedo. Grazie. Domenica ho fatto un video che è stato più virale del Covid e che ho prontamente colto perché evidentemente è stato mal interpretato. Questo video, dove io elenco tutte le persone che sono venute a tamponarsi e che mi hanno detto se erano vaccinate o non, voleva essere un video estremamente neutro e infatti io non ho fatto nessun tipo di considerazione. Questo video è stato girato con l'intento di aiutare la popolazione ad un atteggiamento più sicuro, visto che abbiamo osservato che molti vaccinati purtroppo contraggono la patologia. D'altra parte, questo non è una cosa nuova e si verificava anche per un comune vaccino antinfluenzale. Lo scopo del vaccino era non congestionare i pronto soccorso e non finire in animazione. Di fatto, ho tranquillizzato con un video successivo della sera dicendo che la gente mi si era travagliata, piangeva, andava in panico per poco meno di un raffreddore. Se non avessi questo concetto ben chiaro in testa, non avrei neanche organizzato Natale sicuro, un tour de force, una maratona veramente pesante a 63 anni, che ha permesso a tutti quanti lo ritenevano opportuno venire a controllarsi, a fare un tampone prima di ricongiungersi con le famiglie, con i nonni, con le persone anziane più fragili e portare il virus. Sarebbe mia intenzione anche fare qualcosa di analogo per l'ultimo dell'anno, perché sono giorni dove le persone si ritrovano e dove bisogna osservare tutte quante le cautele per evitare delle ricadute. Quindi io non ho fatto un video per niente no vax, termine che non mi piace per niente. Io sono vaccinato tranquillamente e ho il Green Pass, quello super, che mi permette di lavorare qui. Però nonostante tutto, col lavoro che faccio, io tutte le mattine prima di iniziare il mio lavoro mi tampono, perché credo nella prevenzione. Queste erano le mie intenzioni, su questo ci metto la mano. Grazie. Bene, allora, scusate che... Io lo so che il video era basso, ragazzi. Purtroppo non ho avuto il tempo di prepararmi, perché poi abbiamo deciso, insomma, con Michela di fare questo cambio, altrimenti avrei scaricato l'audio e l'avrei, insomma, compressato un po' meglio e l'avrei reso udibile, ma nella versione in podcast sarà comunque molto meglio ascoltabile, se comunque avete la curiosità e la voglia di ascoltarlo. Quindi vi chiedo scusa un po' per questo fatto. Allora, lui alla fine dice una cosa importante, che lui non è un novax e che la sua intenzione era quella di stimolare la gente alla sicurezza, vaccinati o non vaccinati, e di fare il tampone più frequentemente possibile, perché comunque il vaccino non ti impedisce. In realtà io sono un po' perplesso sulla questione, perché il primo video lui butta questi tamponi sul tavolo. Tra l'altro, noi non abbiamo nessuno strumento per capire se sono vaccinati o non vaccinati, prima dose, seconda dose e non vaccinati. Quindi potrebbe benissimo essere che lui, la proporzione che dice tra vaccinati e non vaccinati, potrebbe essere falsa. Ma non è quello il problema, perché, come abbiamo detto, nessuno ha mai detto che se con il vaccino tu non puoi diventare positivo. ma semplicemente che col vaccino il tuo organismo è più protetto rispetto a quelli che non sono vaccinati. E quindi, cioè, alla fine la sicurezza è continuare a utilizzare tutti gli ausili che devi usare, vaccinarti e costringere o sostenere la tua famiglia ad andare a vaccinarsi in modo che anche loro siano al sicuro. Noi abbiamo situazioni sempre più vicine qua intorno, che si sta stringendo il cerchio, e l'unica cosa che possiamo fare è pregare che comunque questa cosa del vaccino comunque in qualche maniera ci sia d'aiuto, ci aiuti a superare questa fase che si sta ovviamente rendendo sempre più importante. Comunque, l'approccio con cui lui ha fatto il primo video era l'approccio di uno strafottente, di una persona che buttava lì i tamponi sul tavolo, diceva non vaccinato, vaccinato, vaccinato seconda dose, vaccinato, vaccinato, non vaccinato, cioè ogni 4 vaccinati c'era un non vaccinato, guarda un po', no? E questo video lui stesso ammette di aver dovuto rimuovere perché secondo me la gente l'ha bestemmiato a questo, giustamente, ma secondo me ha anche rischiato qualcosa di più di essere semplicemente bestemmiato, perché corre ai ripari e da un video assolutamente criptico che poteva essere interpretato in mille maniere, però dove lui aveva questo approccio così strafottente, alla fine fa un video dove dice tutto il contrario di tutto, ma comunque fondamentalmente tende a giustificarsi dicendo che il video lui l'ha rimosso, intanto comunque è stato riproposto integralmente, perché giustamente ricordati sempre che internet non dimentica, e questa è una cosa importante quando scrivete, dite, pubblicate le cose su internet, soprattutto quando dite le stronzate, state attenti perché internet non dimentica e c'è sempre qualcuno che non dorme nell'ombra, che si tiene la roba insomma al pizzo per i momenti opportuni. E questa cosa è un'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché questa sua secondo video, che in realtà non si capisce bene se ritratta o non ritratta, parte la parte finale dove lui comunque dice sì, io in questo momento faccio tutti i giorni i tamponi per stare al sicuro, ed è questo il mio messaggio. Se era questo il tuo messaggio, sei un comunicatore di merda, ma questo ci può anche stare perché non è che tutti siamo comunicatori, ma soprattutto sei ambiguo, perché secondo me non era quella l'intenzione. È ovvio che la mia è un'opinione, no? Chiaramente non sto parlando di un dato di fatto, però se io devo comunicare ragazzi state al sicuro, dico ragazzi state al sicuro, non butto dei tamponi sul tavolo facendo coglioni, voi vi siete vaccinati, guardate, vedete, tanto vi infettate uguale, perché quello è quello che ne ho tratto io e ne hanno tratto tantissime altre persone da sto messaggio, tant'è che lo ha dovuto rimuovere come lui stesso ammette. Quindi alla fine ragazzi il problema fondamentale su tutta questa storia ha un apice incredibile, cioè proprio c'ha una punta dell'iceberg, che è quello che le istituzioni non sono in grado, e a questo punto chiaramente non vogliono dare un'informazione univoca e istituzionale, non lo vogliono fare perché evidentemente per qualche ragione gli deve far comodo così. E dall'altra parte chiaramente questa cosa dà la spunto a tutto quel sottobosco di miliardi di stronzi che stanno sulla rete a alzare il ditino al di sopra del livello di merda che c'è normalmente, no? Quindi emerge il ditino di merda, ah vedi quello è il mio dito, per 3 secondi il mio dito è stato visibile su YouTube, e questo è perché poi alla fine che cazzo di motivo c'ha di fare un video dove tu fai il provocatore? Se vuoi fare il divulgatore, se vuoi dare un'informazione, vai lì e ti mostri con la tua competenza, con le tue credenziali, e dici ragazzi la situazione questa è secondo il mio punto di vista che sono x, y e z, no che ti metti lì a buttare i cosi, i tamponi sul tavolo, tra l'altro non si vede niente, perché non si vede niente, ma se puta caso ci fosse qualche informazione, un codice richiamabile a qualcuno, ma io ti denuncio, tra l'altro. Però vabbè, il video è stato rimosso secondo me anche per queste problematiche qua, perché insomma ci sono andato io qua a farmacia a far tampone, e quindi potrei essere anche io uno di quelli, insomma, perché poi giustamente la privacy, però non so, questo non lo so, questo sto a tirare fuori una cazzata che magari non c'entra niente, però ecco, sempre questi messaggi così di capito, sempre in mezzo, no? Cioè, no, ma no, io non volevo dire, ma volevo dire. E poi alla fine sta cosa, la parte dove lui dice che è soltanto una semplice influenza, non l'ho capita, mi sono un attimo distratto in quel contesto, pur avendolo ascoltato due o tre volte, perché quando uno fa il discorso del ragno, quello là che ha appiccicato sullo specchio, e alla fine fai un discorso anche un po' confuso e tendi, insomma, a mettere un po' tutto, insomma, cercate di metterci una pezza da qualche parte. Quindi poi alla fine, se lui ha veramente, insomma, fatto un discorso coerente anche su sta cosa, magari poi me lo riascolto bene. Però a me la cosa che veramente mi ha dato fastidio era la prima parte del video, la cosa sulla, appunto, sulla quale appunto l'attenzione, il fatto che lui questo video lo ha rimosso dicendolo anche lui stesso, e la parte finale che lui praticamente, la sua intenzione era quella di fare divulgazione, di dare un'informazione sul fatto che bisogna tamponarsi tutti i giorni per andare al lavoro, perché dobbiamo stare al sicuro noi e tutti i nostri cari. Ok, se fosse stato quello il messaggio io l'avrei apprezzato, ma lo hai detto bene all'inizio, Simone. Allora, scusate, se voi vedete la chat, io non si è reso conto di quello che stava facendo, o forse non ha soppesato bene il tutto. Non per giustificarlo, io non lo so, devo dire la verità, ci sta, vedo più buona fede secondo me nel pischello che ci aveva bisogno di visualizzazioni, e che comunque secondo me non era neanche da quelli, veramente sti ragazzi sono talmente concentrati solo sulla merda che devono fare, che secondo me non hanno una consapevolezza reale delle cose che succedono intorno a loro, neanche questa è una giustificazione, però vedo più buona fede, cioè nel senso, secondo me non si rende conto della portata del danno che può fare un farmacista, uno scienziato, una persona che ha studiato, che sa di che cosa sta parlando, invece è consapevole di quello che fa, deve essere consapevole. Se c'è un farmacista Novax, se ce ne sono, e vanno individuati, perché queste persone comunque all'interno della loro posizione alla fine comunque rischiano di fare più danni che danni, insomma, no? Come, perché pure questa cosa dei tamponi qua c'è un mezzo business, cioè nel senso, alla fine allora farmacista che fai? Stai a fare la marchetta del fatto venite da me a fare i tamponi tutti i giorni così io guadagno soldi? Non lo so, vabbè, comunque ragazzi, questa cosa è veramente fastidiosa, e soprattutto è pericoloso questo, alla fine dei conti, il fatto che tutti oggi possiamo prendere il cellulare e spingere un pulsante e dire cazzate di qualsiasi genere, in modo che ovviamente noi ci becchiamo quei 3 minuti di popolarità, aiutiamo tutti questi siti che ovviamente ripubblicano il nostro video. Tra l'altro a me la cosa che lui dice, hanno fatto un video che è diventato più virale del Covid, no? Cioè nel senso, pure questa strafottenza, questa stupidità, no? Questa voglia di essere per forza polemico, politicamente scorretto, che oggi è proprio la moda, no? Oggi non sei più un cazzo di nessuno se non sei politicamente scorretto, cioè assolutamente all'interno delle comunicazioni. Quindi alla fine, cioè, questa cosa a me proprio mi sdrucina proprio i coglioni, è una cosa che non riesco a sopportarlo. We'll be right back. ammazza è merda sta canzone. Non meriterebbe neanche di essere disannunciata. Comunque loro sono i Black Sheep Riot. Sheep, cioè sono le riot delle pecore nere. E la canzone si chiama Starship Song. Veramente bella, proprio degna insomma del peggio di Giamendo. Insomma, beh, ragazzi, sapete che stiamo facendo. Tra l'altro, insomma, a brevissimo arriveranno tantissime nuove hit da Giamendo, quindi finalmente ci sarà anche un po' un repulisti, diciamo, insomma, un cambiamento. Vi ho messo i link dei due video in chat perché giustamente mi avete chiesto di poterli ascoltare bene. Mi dispiace, insomma, la prossima volta, se ho più tempo, ovviamente gli audio li lavoro e li post-produco in maniera tale, insomma, che possano essere ascoltati. Michela ci dice: visti aspettate, ecco, ok, visti i non vaccinati che girano tranquillamente senza neanche tamponarsi, diciamo che ha ragione. Cioè, certo, giustamente il fattore statistico, quantità di vaccinati non vaccinati di quei tamponi, non ha neanche senso, perché magari i non vaccinati, come giustamente dice Michela, manco ce va a farsi il vaccino. E invece giustamente Davide ci dice, quindi DJ Joker, sicuramente ha avuto una teca, che probabilmente un merdone, insomma, fra i denti. Ah no, ok, quindi una ciabattata a mezzo ai denti, ed ora pian piano sta ritrattando. Sono anch'io di questa, assolutamente di questa idea, perché secondo me comunque lui, ribadisco, non si è proprio, cioè nel senso, se c'è la merda che gli è arrivata addosso, anche dal punto di vista probabilmente delle minacce legali oppure magari a livello proprio professionale, secondo me comunque alla fine lo hanno portato a cancellare il video, non perché è stato frainteso, cioè altrimenti non lo cancelleresti un video, secondo me, questo in generale. Walter ci dice: ma se è una semplice influenza, a cosa servirebbe tutta questa profilassi, che poi lui stesso giustamente raccomanda al termine del video? Ha ragione, infatti. Ma si è reso conto, e come, non immaginava il merdone che ha pestato. Sì, secondo me lui non si è reso conto della proporzione, di quello che poteva succedere, insomma, con il video. Ma secondo me il video era assolutamente del tutto intenzionale, anche perché, ribadisco, si vede dalla faccia che è uno che è un gran fio della mignotta, questo, insomma, e questo è sempre il discorso che facciamo durante questo periodo, cioè, ossia, questa società del social media che ti dà il sogno di poter emergere all'interno di questo mare magnum di merda, ovviamente costringe tutte le persone a fare e dire tutto il contrario di tutto all'interno di un contesto, pur di avere comunque quei 10 like in più, quelle condivisioni che in quel momento ti fanno sentire che stai esistendo, ma anche non concesso che in quel momento tu non stai esistendo, 10 minuti dopo continuerai a non esistere nuovamente. Quindi, ragazzi, fate pace pure con questo tipo di discorso, perché purtroppo poi alla fine è quello che succede. Boh, vabbè, ragazzi, ma che vi devo dire, andate a curare, che secondo me è la cosa più importante. Bene, ragazzi, alla fine non ci avrei creso neanche io, sono riuscito a portare a termine anche questa puntata senza una scaletta ben precisa, quindi chiacchierando. Mia moglie mi ringrazia giustamente qui dalle retrovie di Runtime Radio. Vi ricordo, ragazzi, che questa sera, dalle ore 20 fino a giovedì, c'è le orazioni della sera di Walter Sbano, quindi martedì, mercoledì e giovedì. Oggi è martedì, giusto? Sì, oggi è martedì, mercoledì e giovedì, le orazioni della sera dalle 20 alle 20:30 circa, e poi qualche volta si prolunga. Vi ricordo che questa settimana è ancora in progettazione lo speciale su Ciao 2021, ma non lo possiamo annunciare perché non è ancora chiaro quando lo faremo. E invece giovedì prossimo alle ore 21:30, in Quando eravamo futuro, parleremo degli spot televisivi anni 70, che chiamarli spot televisivi anni 70 è un po' un azzardo, ma vi racconteremo, vi spiegheremo come funzionava allora. Tutte le mattine, quindi a partire da domani mattina, vi ricordo, mercoledì e venerdì, ritorna Leo Varghion con il Mattino Loro in Podcast, che lui fa sia lunedì che il mercoledì che il venerdì alle ore 7 del mattino. Domani tocca al Libro Game e venerdì tocca ai robot, credo, se avrà il tempo ovviamente di organizzarci. Sì. Mentre invece per quanto riguarda giovedì prossimo, giovedì praticamente dalle 7 alle 8 del mattino ci sarà Michela con Disordinati Informati al mio posto, quindi l'ennesimo interscambio. Sabato dalle ore 8:30 alle 9:30 ci saremo io e Michela con Disordinati Informati. Poi c'è anche c'è la Befana di mezzo, non so quello che ci inventeremo come al solito, lo sapete, noi qualcosa alla fine ce lo inventiamo. Ma grazie di essere stati qui con me, vi ricordo di andare su www.rantemeradio.it, ascoltare la nostra radio, condividere la nostra radio, condividere i nostri programmi e cercarci su Spreaker, dove troverete Runtime Radio con tutti quanti i podcast che escono quasi a livello giornaliero, se non a livello giornaliero. Ma soprattutto cliccate sul pulsante Anch'io e sostenete il nostro progetto con delle donazioni, una tantum tramite PayPal o una donazione ricorrente tramite Patreon, si chiama Patreon. Bene, detto questo, grazie a tutti, buona giornata e buongiorno, un cazzo a tutti quanti. Ciao belli!